canale 10. Ui, Sandoka, su che andiamo. Ui, Sandoka, su che andiamo, su. C'è qualcuno su 10? Già, ci sono io, non ascolto, ma sono andato a mangiare il bambino, ok. Vabbè. Subito, in primo piano. ma se non conosce nessuno, come te lo dobbiamo fare? Eccomi qua, eccomi qua. Oi, briciola! Ebbe briciolino! Ebbe altro, tutto a posto, mangiato hai! Gappa, gappa, mia cognata oggi mi ha preparato le polpette al sugo. Ma dov'è, ricatta, dov'è che vai sempre, che lui che ti pensa a casa? Sì, adesso fare anche io, adesso fare. Da venerdì ho tre serate di fila, fino a domenica. Sassari, Tissi e poi devo andare a Trulla. Cioè, per te vicino a Arzaghena. E a Sassari cosa c'è? Sono in quella, come si chiama quella? Piazza Moretti, lì, cioè quella che costeggia in Viale Dante, lì dentro dobbiamo fare lo spettacolo, non lo so, ma ho detto che sono una massa di Mau Mau. Piazza Moretti, non so manco dove sia io, boh. Non ho mai sentito questa piazza. Dove Viale Dante, c'è, cioè, presente? Cavolo, dentro c'è la piazza, c'è, cioè, capito? Fatti i parcheggi vicino, c'è, che ci sale da dietro da via Diaz. Ah, ma se ho capito, là, già ho capito già dove, adesso me ne tutto, però non conoscevo il nome della piazza, capito? Sì, poi dobbiamo andare a Tissi e poi dobbiamo andare a domenica a Trulla, praticamente vicino a Arzaghena. Ma via Diaz dove c'è la piazza, dove c'era il mattato io prima? In Kiwi. Ho capito. Scappa. Dopo l'ultimo viaggio più lontano di tutti. Asciuga. Trullas si chiama. In Arzaghena. Trullas, vicino in Arzaghena, sì. Che cosa c'è tu? In Bertas dobbiamo fare. Io sono andato a vedere il tributo di Piero Pirù l'altro giorno a Portotorre, era bello, era un bel concerto. Era un gruppo che suonava tutte le canzoni di Piero Pirù, ci assomigliava anche. Già lo so già, ma lui è lui. L'abbiamo fatto anche me, anni addietro, Piero Pirù. E capito una voce. A me infatti ci di capo, è il mio genere proprio. No, a me no, non è il mio genere, il mio genere non è quello sono i demoniati, sono. Ma cos'è indemoniato? Chi c'è musica? A chi? Troppo lù. Ma a me piace anche. Io sono un po' metallaro, un po' metal. Mi piacciono anche altri gruppi. Heavy metal. Poi vabbè, ascolto anche la musica normale, però quella lì mi fa decidere il capo, cioè la mia preferita. Poi va per quello, no, cosa musica, lascia perdere. Prima erano canzoni. Prima, pure adesso sono canzoni. E lui è sempre il diavolo, è sempre il migliore, la capisci? Mi piacciono tanto, c'è tante cose, Vanes, cioè, musica che gli tocca, musica seria a me. Musica la Stravucci. Cosa hai detto? Musica la Stravucci. Ma vai, cosa la Stravucci, so chi si mette in pugnette. Ti spacco, ti uccido, ti ammazzo, non che fa musica seria. Cosa Travolti? Sono i diavolati, tu, parlano del diavolo, di queste cose qua. Sono satanici. Maga satanici. Sì, un tanto di cappello, ci faccio un pensiero a vedervi. Quindi sì, che sono canzoni, che musica. Le amiche sono musica, i Big Floyd. Pink Floyd, gli Iron Maiden. Quella è roba seria. Ascolta gli AC/DC. AC/DC sono sono fatto un'appennina per la macchina e ho messo tutte le canzoni dei complessi che mi piacevano, ne ho messo degli anni 80, 90, canzoni da discoteca, tutto misto, capito? Di modo che quando fai viaggi lunghi non c'è lui. E poi ho messo anche tutta la musica che mi piace di adesso, di questo momento qua. E ci passa, se va lontano, tranquillamente, senti musica tranquillamente, una diversa dall'altra, anche di diverso genere. Sono grandi, sì, e tuttora sono grandi. E buco curri in macchina da giovane quando ascoltavo gli ACDC. La baseria, eh. Avanti, chi chiama? Che sta chiamando, avanti. Aspetta tu. Cappa, dai, ti ascolta un po' basso, che giovane sei di Sassari? Santiago 7, la radio 2. Avanti, Antonio, lo senti? E dimmi. Lo senti, l'amico? Non lo so, perché c'ho un biglietto di colpi, quindi, cioè, sento a voce, vabbè, non è un problema con voi. Però magari lui è troppo basso, non riesco a sentirlo. Tu, Manuele. Cosa? Manuele, tu lo sei. Avanti di nuovo, amico, ci devi dire il nome, però, qua è la stazione doppio room, operatore Gianni, avanti. Che è già, ho capito. Aspetta, lascia parlare, se non capisco. Allora, in assenza di QRM ti ascolto con un Santiago 7 e una radio di 2, però è abbastanza chiara, dai, per essere con due basi va benissimo. Se poi aumenta, però così ti ascolto lo stesso. Antonio, avanti. Io l'amico non lo sento molto bene perché, ripeto, già lo sai. Chi è l'amico? Parla da solo, non ho capito come si chiama. Non so se lui sente a me. Lo senti l'amico Antonio, l'amico di Sosa? Vabbè, se puoi fanno, così ci ascoltiamo meglio, lo stiamo a cercare di tirare fuori le parole, dai. Se puoi farlo aumentare, aumenta, perché io ti ascolto, ma non sono tutti che ti ascoltano. Antonio c'ha dei disturbi dall'altra stazione, Emanuele non so se ti ascolta perché c'è con l'antenino, quindi se puoi, aumenta. Vabbè, dai, ti trovi lontano da Sorso. Ho detto ti trovi nella strada Sorso di Vidriazzi. Vabbè, non le metti mille, le metti di meno, ci sarà da regolarli. Avanti, Manuele, Antonio, non ha più nessuno. Ma come apparecchi non hai altro? Volevo già, no, sta ancora parlando. No, non sta parlando adesso. Kappa. Io lo sentivo un po' così. No, non riesco a sentirlo perché ho dei disturbi, ciò. Ma lui già ti sente bene, ha detto forte e chiaro, lo sento. Ah, lui a me mi sente bene? Sì. Io qua no, vabbè, c'avevo dei disturbi. E quindi non arrivava molto bene, capito? Avanti l'amico, come ti chiamiamo? Come ti chiami di nome? Mentre il QRM mi arrivi, perché sì, 7, 8, dai. Però boh, la radio non è forte, se avessi avuto un pochettino più di radio sarebbe stato alla stragrande, avrebbe andata bene. Ho capito Mario, tu lavori in Germania, ma in Germania c'è la stazione. Ma in Germania moduli? Ho capito. Ah, quindi e com'è la frequenza lì? Sempre in FM vanno? No, ma dico, la frequenza cos'è? FM o AM? La modulazione di frequenza? Ho capito. Avanti che è entrato, buonasera. Ciao Gianni, Torino. Ok, chi è l'amico che ne offro passino? Saluto anche a lui. Mario da Sorso, praticamente lavoro in Germania, Mario, ma è lui da fare le vacanze 2 settimane qua e ci ha piazzato il baracchino, perché anche là modula. Ma c'ha un antennino o c'ha? Non lo so se è un antennino oppure se è un'antenna, non lo so. Io l'ho 7x7, la radio però è 2. E anch'io 7x7. Avanti, amico, mi copri, Torino Kawasaki da Sassari. Oh. Antonino, hai sentito? Attenzione amico, mi copi? Con voglia, aspettate un attimo. Ok, ho capito che mi sta copiando 7x7. Anche tu 7x7 da reso un po' bassina, cioè reso 2, dai. Più o meno come amico Gianni. Ciao Antonio. Ciao Tony. Aspetta un attimo, sto andando a pulire il bambino che ha fatto i bisogni. Ehi, vai tranquillo anche tu. Cosa ti stavo dicendo, Tony? È un'antenna così di... che ha messo posticciamente, deve starci 2 settimane, tanto per parlare, sto facendo con un vato e mezzo che fare un vato. Allora ce l'ho bene, da poi associo. Ok, dai, più o meno siamo in zona, dai, non è che... già adesso a percepirlo, per la zona in cui sono io, ce l'ho bene, dai. Sì, mi gratula Mario. Mario, ammulato, ho detto sei emigrato in Germania, poi già va bene, però per un quarto e mezzo arrivare a Sassari è già tanto, va. Quello è tutto. A voglia, sta andando finché troppo bene, scappa, vada bene, dai, io sono il periferia di Sassari, comunque l'amico, che sia sorso, ok, sono zona San Camillo, comunque. Riesco a tirarti abbastanza bene, dai, sono tiro 7 da mezzo di 2, però abbastanza comprensibile al 100%. Mario, tu sei di Sorso? Hai capito tu? Lì c'hanno 500.000 watt in Germania. Ehi, proprio poco, non è come qua. Qua è che se lo puoi fare, no, lui. Comunque sono andato da lì, devo prendere qualche gelato, Gianni, indovina chi ho incrociato. Di amore, che vater. Sì, ha 4 anni meno di me, ma stai vecchiando, cavolo, guarda, allora posso dire una cosa, che a me la raga che l'ho sbagliato, io mi sento che ho 50 anni. Sei robustito. Lo so, però lo vedi un po' piano piano, anche il viso, si è un po' invecchiato, capito, per avere 66 anni, boh, ma del tutto non lo vedi molto 70, io lo posso a settembre, ma mi raggio. Guarda, ha tanti pensieri, tante cose, con tutte le ditte che c'ha, ha sempre da fare, sempre da girare, cose, non ti credere, no, ha una vita molto riposante. Luce è molto proprietata. Sto parlando al telefono perché dovevo partire, sempre viaggio, per carità. Vabbè. Io sono da tanto che non lo vedo, però... prima già ci vedevamo, andavamo anche a prenderci caffè insieme, ma qui sono stato un certo periodo che non lo vedo più. E io ci ho anche lavorato tanto tempo fa, ma molti anni fa, parecchi. E niente, era un bel figurino prima, vabbè, gli anni facciamo per tutti già, comunque. Che ti posso dire? Io sono andato a prendere qualche gelato, tutto per cambiare, dai, cornetti. Mi sono fatto un po' improvvista. Ma te, è diventato un frigorifero. Ma com'è non ne mangi gelati? No, ma uno intanto fa bene, ci vuole, dai, già. Che cavolo. No, il Prinz, insomma, un po' non dico ripeto, ma insomma, già c'è il mio, c'è anche il pozzetto Prinz. Ma già basta con lei, quando poi comincia a calare, quando arrivano 4-5 bisogna fare il rifornimento di nuovo. Ma no, io non raccolgo tanti, perché poi tu dici, lo sai come ti seguivo, mi mangi di tiro la voce. Ma no, io non prendo la scherza, c'è fuori già. Confezionanti, cornetti, poi quei cornetti giganti, che costano poco, sono 5 centesimi, che insomma però ti bastano 3 euro. Niente, poi sono scorta è colui che ha il cioccolato, buonissimo. Poi quello alla panna, poi quello alla marena, e via, biscotti, e tornalino, tornalà. Si difende bene, dai. Si deve proprio piazzare un bar direttamente. Quando ci vuole già. Come si chiama amico? Ha detto Mario? Mario, avanti Mario, ci sei? Certo che ti sento io. Aspetta, al telefono. Riprendi Mario, riprendi. Che stazione c'hai in Germania? Che tipo di radio stai usando? Aspetta Gianni, sono pure X se sono al telefono, rientro subito. Sì, sì, ho capito. Che cavolo c'hai? 140, 440, 980, quale c'hai? Già la roba è quella là di sottratturi solo. Cosa c'hai? Cos'è? Un apparecchio base quello Grundy? Vabbè, magari si sono scaricati i condensatori, qualche cosa è successo pure di non usarlo. Bisognerebbe accenderli sempre, anche se non li usi, fare scaldare un po' per caricare i condensatori, perché sennò poi danno numeri poi. Ah, vabbè, anche io ne ho tre di stazioni in base, c'ho anche lui, non so se tu lo conosci, americano. Ma sarebbe bene farlo scaldare un po' prima di usarlo, perché dopo 40 anni che non lo usi, bisognerebbe che scaldasse un po', lo accendi senza usarlo e poi lo usi. Sì, ma prima propagazione c'era di più, adesso mi sa che ce n'è un po' di meno. Prima in questo periodo ti chiamavano i continentali, i siciliani, ma adesso non sento più nessuno. Mi sa che ce n'è di meno di propagazione, io ho il tempo, non so, ho l'atmosfera inquinata che lo fa più arrivare le onde come si deve. Ma là in Germania ci vuole sempre il patentino per usare gli apparecchi radioamatoriali, vero? No, qua per la 27 non ce ne vuole più, né patentino né l'accreditazione, nulla, non paghi manco più la tassa su questa frequenza, non si paga più nulla. No, non sapevo questo, ma sì, ci sono dei gruppi tipo Alfa Tango, tutti questi gruppi qua che fanno anche i contest, eccetera, eccetera, si organizzano così, si danno un canale e poi fanno i contest. Sì, sì, io appartengo a tutti questi gruppi che ci sono su Facebook, Vendlo Radio, della 27, eccetera, eccetera, tutte queste cose qua ci sono dentro, però le frequento poco, dico la verità, perché faccio talmente tante cose su Internet che poi non ho il tempo di fare tutto. È interessante che ti sentano, ma sono interessante che ti sentano e che ti capiscano. Per esempio, io l'apparecchio che sto usando adesso è un apparecchio degli anni 80, 75-80. Ma guarda, questo qui è il Galaxy Saturnetto. E come ti sta arrivando il segnale di Assorso? La radio chiara. Questo qui è il Galaxy Saturnetto, non so se tu l'hai mai visto. Sì, come sono rientrato. Sì, Antu, sì, stava parlando. Mario, rilanciamo Antonio, avanti. Capo Mario, ma bene mi senti lì a sorso? C'è bisogno di gridare. Cosa ho detto già che mi hanno disturbato? La Santiago uno si è arrivato a 8,2, ma sì che si è attaccato. 8,2. Come si è detto? Ah, Santiago 8. Capo, io ho delle scariche di disturbi e non riesco a sentirti benissimo, non riesco, però magari Gianni mi dice qualcosa, dai. Aspetta un attimino. Beh, guarda a vedere come sto arrivando io adesso, Mario. Quando scappa, dai. Va bene, dai. Adesso sono da bravo, dai, faccio da bravo. Ciao Mario, ciao, buon correnti, dai. Ci ha fatto piacere anche a noi, quando lui entra non c'è problema. Avanti, Capa, ti saluto Mario, ci risentiamo alle prossimine, buon tutto. Tanto riprima. Capo, un bel forte sta arrivando. La radio è un bel forte, ma tu gridi anche, infatti è quello, che quando parlava lui dovevo alzare, quando lo pensavi lui dovevo abbasciare, sennò mi facciavi la legge. Non sto gridando, sto parlando giusto, dai. Sto parlando il giusto, non gridando. Sì, magari c'hai il volume un po' alto del microfono. Stavo arrivando a bomboletta. capenza c'è di gol, così sono arrivato un caso di assurso. Cappa, no, no, non è che alzato, non lo poi arrivavo bene da sorso. Eia, ha detto che ti sentiva forte in radio all'inizio, poi ha detto Santiago 1, poi deve essere tu hai attaccato, ha detto Santiago 8. Ah! Io gli arrivavo con lo scalo. Sì, ma è una posizione che magari c'è questo palazzo davanti, davanti a Sorso, se no sarei arrivato bene. Mi parla pure tu, Gabriele. Ma no, che schifo. Parla pure tu. Mi stai imitando, gli ho dato il microfono, mi stai imitando. Però no, se Tony non muore sul telefono. Tony! Tony, non ci sei? È andato al telefono. Interessante che ogni tanto l'intelligenza adesso dovrebbe arrivare quello da se ancora se si trova ancora dovrebbe arrivare quel ragazzo, quell'uomo dalla Svizzera, quello di Sassari che è emigrato in Svizzera, aspetta come si chiama, Giulli. E il mondo del baracchino. Sì, lui non li hanno a Sassari, c'ha praticamente la campagna, la casa in campagna. E lui era meccanico in Svizzera, mi pare della Mercedes, era capo officina, roba del genere, capito? Beh, praticamente vedo ogni anno, fa fare lavori, campagne, cose, poi se ne riparte dopo che va a trovare tutti i familiari, perché la moglie di Cagliari. Ah, ho capito. Entra ogni anno, entra. Ogni anno viene, ma è anziano, adesso non lo so se verrà ancora, se sa venuto tutto, perché lui è di Sassari, fa vedere da Brusa Sarese. Fa del sassarese con l'accento svizzero. Tutto particolare, molta gente se n'è andata lì. Molta, molta gente. Dice che è il paradiso fiscale. Dice che lui adesso è in pensione, lo cercano ancora. Ci sono i clienti che gli telefonano a casa, dai, guardami la tua macchina, tu sei bravo, questo e quell'altro. Lui non sto più lavorando. A lui dice mi devo fare i dramari a Guccio mio perché ci sono clienti che sono affezionati, anche se sono andati in pensione, mi chiamano sempre. Soldi sono, me. Certo non me ne avevo dovuto bucare un conto, ma sono soldi. E lui già guadagna bene, ha sempre guadagnato bene, che se vuole una macchina grossa, è tutto cazzo, no? C'ha il camper, la macchina grossa, insomma, sta bene, dai, come persona. Avanti il break. Che è avanti, buonasera, non più lungo da questa parte. Poi dai, mi sei sembrato più, però non ero sicuro. Ma sei basso, mi dai, 65. Non abiti più. E dove ti trovi adesso? E lui, hai visto facendo l'eremita. E dove più o meno? Vabbè, dai, volevo chiederti un controllo. Volevo chiederti un controllo da così a un altro per vedere come arrivavo e sapere un po' quanti chilometri sono. Ehi, capo Daniele, buonasera, mi senti bene lì? Io già lo so dove sei. Daniele, sempre gli anni sono, guarda adesso per tutti gli amici. Ehi, vabbè, ma già ti fai sentire lo stesso. Mi sembrava la tua voce, però te l'ho Daniele arrivò un po' più forte. Ma la stessa antenna hai messo? No, era bassissimo. Molto, molto, molto basso, molto basso. Ehi, ancora che hai tanto io ti dico anch'io, lo sentivo molto basso, sentivo bisbigliare più che altro, ma non capivo cosa dicevo. E chi è? Non sei tu, Antonio Dicci. Ma stai dicendo, Daniele, Antonio Dicci, quello che fa il tecnico? Kappa, Daniele. Ma non ce l'hai molto alta l'antenna? Ti ho detto, non ce l'hai molto alta l'antenna. Ma tu c'hai anche un aiutino, mi sembra. No, non adesso. a Sassari ce l'avevi qui, ho detto non ce l'hai portato. Sì, la sera ci siamo sempre, uno lato, sul 23 o sul 10 ci siamo quasi tutte le sere. Ma la furistella non ce l'ha attaccata. Ah, sta facendo più di quello sport. Mi sono perso tante cose, le ho capito. Io te l'appoggio, io, vabbè, io te l'appoggio, ti appoggio e basta. E io, ciao, buonasera. E dove sei? Aiti lì. E cosa ci fai di là? Io abito, tu abiti là. Cosa abitavi in cosa? In Italia. Daniele ha dato una svolta alla sua vita. Kappa. No, non ci credo, guarda. Può essere, cazzo, che tu sei di là. Porca miseria, cazzo. Ti sei spostato proprio di molto, mi. Non beh. Ah, quello sì. Non è, già lo sai, che già ci fai sentire bene, eh. Già va bene, Daniele. Non c'è problema. Si ascolta lo stesso. 9:10 sei qua. E io? Io sono zona di Malerta, zona Latte Dolce. Stai arrivando 7. Stai arrivando. Cappa. Sì, sì, anche io come Antonio ti ascolto. Santiago 7. Abbiamo segnato uguale. Ma il cappa stai usando? Santiago 7, adesso è più pieno. Prima era un po' scarso, adesso ce l'hai un po' più pieno, sì. E chi deve progressare se sei in una conca dove non c'è nessuno? Ho capito. Vabbè. Quando devi salire a Sassari già sei vicino. Fai prima la sala dei chivi che è in città, che è andata da un punto all'altro della città. Hola, hola, hola. Hola, eccomi qua. Sto usando l'ala 48. Un po' più basso sono. Ti piace di più l'altra? Troppo casino qua già. Gianni, mi senti? Ho dovuto abbassare la potenza, la modulazione. Potenza ce n'è abbastanza. Come di segnale? Già va bene già. Poco avanti. Daniele! Vabbè, ho messo l'altro apparecchio, come ti sta arrivando con questo? KK, dai, sì, ma già va bene. Già va bene. Il radio come mi ascolti, Daniele? Per fare girare un po' tutti gli apparecchi, perché anche io ogni tanto li accendo, però se non mi vanno bene. Uso sempre lo stesso, uso sempre il Galaxy, perché quello mi piace un bel. La mia chicca più ferita quella lì. Il Galaxy Saturn, ecco. Aspetta un attimo, un buon gol di bici. 9 a picchi di 9,5. Kappa. Io il segnale te lo sto dando col K. Meno male che c'è un'antenna, se no non ci saremmo sentiti. È stato più di 9,60, zio. È uguale, questa qua GPM è uguale, precisa. Ando su per i 9,60, quasi sul DB, sì. Già lo so. Gabriele, esci dai occhi. Aspetta che lo tolgo da qua. Lo so che ce lo so già. Ah, ma penso di sì. C'era anche Tonino, è andato al telefono, poi non è più rientrato. Deve essere, si sta facendo da mangiare, perché sono già le 8 e mi pare che mi saluto di burro perché devo portare giù il cane. Dai, fatti vedere, dai. So con la vita che non ti vengo più. Dalla volta che ti è trovata a Flatamola che ci sono avvicinati i carabinieri. Fino a me. Kappa. Tua madre già sta bene, sì. Ai. come finiamo tutti quanti, per carità, meglio non pensarci, va. Speriamo di morire sani, perché così è brutto essere appeso agli altri, va. Magari trovano altre persone e si distraggono, capito? Vabbè, e purtroppo quando sono così, Daniele, come fai a seguirlo? A parte che ognuno ha i suoi, la sua famiglia, le sue cose, come ti vai? È un casino. Io vabbè, c'avevo, mio padre però era tranquillo, era sano, sino a quando è morto lui era sano, capito? Ragionava, mangiava, era un grillo, era, sino a 96 anni. Perché ho un'amica che con la madre era lo papeciccia e adesso la madre gli dice che gli ha rubato la roba, esci da di Gabu, gli dice che gli ha rubato la roba, dice guarda già sentire queste cose gli fanno così male, dico, purtroppo non è lei che sta parlando, è la malattia, non è che dice dammi la roba che mi ha rubato, dammi le chiavi di casa che tu vieni a rubare qua. Perdono anche l'orientamento, perdono tutto. E infatti tante volte quando escono poi si perdono. Io una volta ho trovato un anziano e mi ha detto mi porti a casa, io non trovo più la casa, non so più dove. E dove abita? Mi abito lì. E l'ho portato, l'ho accompagnato in questo portone e non risultava. Invece era il portone vicino, capito? Meno male che sono andato a controllare. E mi sono preso quest'onere e poi ho detto cosa faccio se poi non trovo il posto, boh, un casino. Dopo che è morto tuo padre, tua madre sicuramente ci ha sofferto e cose. Ciao adesso. Non è manco molto vicino, non è tanto anziana, dai. Non si chiama. Ma non è. Ho Avanti. Già me l'avevi detto che il problema, mi dispiace. Ehi, ciao Daniele, ci ha fatto piacere, dai, ci ha fatto piacere ascoltarti. KK, andiamo bene, ci sentiamo alle prossime, ciao, ci sentiamo, avanti a tutti. Ciao Daniele, ci sentiamo alle prossime. K, adesso già tutto ti accendo. Ciao Daniele, cosa hai detto Antonio? Non ti ho capito. Adesso sembra a fondo scala bomba sono. Prova. 1-3, 1-3, 1-3. Sempre così, sì, sempre lo stesso segnale. Sì, ja, va bene. Appagato. Andà bene. Dai Antonio, io ti saluto che devo portare giù il cane. Ti saluto e vado a portarlo giù, dai. Stammi bene, tanto il coscio è bello. Ciao, mi ha fatto piacere sentire da Daniele, capo, da una marea di tempo senza sentirla. Oh, ti arrivo anche bene a Sassari, già. Sono contento. Ciao, ciao. Sì, sì, ciao. Ciao a tutti, ci sentiamo. A poi lui piace allineare, se attacca lineare arriva più forte, butta. Lo so. Non so se ce l'ha venduto, ma prima ce l'ha venduto. Sì, stiamo andando, cale, sentito. Chiamalo. KK, non tocca nulla Gabriele, ciao già. Ciao a tutti gli ascoltatori, ciao Tonino se ci stai ascoltando, ti ho chiamato diverse volte ma non sei entrato, dai, ci sentiamo. Ciao. Antonio, e ciao Capobuccio. Saluto a Cantone lo Bombonio se c'è ancora. Ah, caro. Cosa c'è, vieni avanti. Beh, ciao a tutti, dai. Ciao.